Thank you. giurato masnadiero. Thank you.

presto fido partirà. Spettro che cerca vedeta, tanto ucciso il mio padre l'aspetta, l'ombra là da pagare saprò, no dei non le toghe ma la del petto, tutto spegnere a fine vadrò. Fuggi che serva il mio amore, fuggi, fuggi, thank you. tanti covi, questi tre tutte soffocar saprò. Tre covi, tre difensori, abbatterò. Ora, signore, di silva son le lame. Vedremo, e ribelli, l'ultima torna vinta, il capo non bandito per noi, ma il tuo castello è per ricerco. Oh, Thank you. Thank you. Thank you.